solo chiacchiere distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. :49 minuti primi. E torniamo in diretta dopo prove tecniche di trasmissione. Siete sintonizzati e sintonizzati sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. E questa ai voi è 25 o'clock. Noi iniziamo subito con il ricordare le coordinate della radio. E poi andremo a presentare dei ragazzetti disagiati. Perché ci piace così, eh? Iniziamo con il sito della radio, raggiungibile al www.ondarossa.info. Sito attraverso il quale, oltre che poter ascoltare la radio in streaming, e quindi oltre le frontiere dell'FM, sito attraverso il quale rimanere informati su quello che succede nella città e oltre. Con le notizie, i podcast dei redazionali e delle trasmissioni. Radio Onda Rossa, radio libera nell'etere, senza padrini, senza padroni, senza pubblicità, dal 1977. Un progetto editoriale che potete contribuire a mantenere in vita. Eh sì, perché senza di voi potete sostenere la radio attraverso il sito, andando a cliccare su sostieni, nonché attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56, 00185, Roma San Lollo. Eh sì, perché c'è pure il professore, eh? non ci siamo dimenticati. Dello storico numero di telefono di Radio Onda Rossa 0649 1750, quindi fatevi sentire. Oppure, se non volete farvi sentire, potete mandarci un apprezzamento. Trillando, ed andrete ad illuminare gli studi di Radio Onda Rossa. Le email della trasmissione 25oclock@ondarossa.info oppure fantasma@ondarossa.info. Insomma, questa sera abbiamo ospiti. Direttamente dalla Tuscia. Oh. E loro sono gli Assedio. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Sì, sì, sì, standing ovation. Va bene, un giro di presentazione. In pratica gli Assedio sono venuti al completo questa sera. Eh sì, perché stavamo a fare le prove, quindi. Quindi vi abbiamo catturato proprio un'occasione rara, poi però, fare le prove, sì. Perché comunque già una buona cosa. Gli Assedio fanno le prove. Sì, ogni tanto. Ogni tanto. Non si direbbe a sentire, però. Allora, chi ci abbiamo al microfono? Leonardo. Poi qui c'è sta. Leonardo che nel. Ah, canto. Diciamo, cioè, diciamo la voce. Canta una parola grossa. Va bene. Poi c'è Marco, che è il chitarrista. Faccio casino con la chitarra, non sono chitarrista. Io sono Fabio, il drummer. Mamma mia, che con tanto di occhietto, no. Abbiamo preso apposta. Sì, per l'occhietto. Io sono Massimo, il bassista. Dai, E Schino, un'altra chitarra. Oh yeah. Io dopo questa presentazione sceglierei direttamente un pezzo per presentarvi. Che ci avete portato? No, vabbè, questo anche perché normalmente, no, quando chiami a parlare le persone che suonano, diciamo, è meglio farle suonare prima, certo. E poi parlare, perché sicuramente suonare è la cosa che sanno fare meglio. Se vuoi parliamo quanto ti pare. Dai, allora, la prima traccia che ci avete portato, la presentate voi. Vai, questa dovrebbe essere Vota. Vota. Sì, anche detta Vota sto cazzo. O, sì, cioè, c'è vari nomi. Questo capisco, non capisco. Vabbè, libera ad interpretazioni, sì, poi sì. Magari ci spendiamo due parole. Ecco, ci siamo preparati. Il principale, vota al partito del capo. Ed eccoli, insomma, presentati giustamente da questo pezzo. E grazie sempre a Fabio Orecchia per la collaborazione di Vota. Questo pezzo era uscito su quale lavoro? Dal secondo album. Dal secondo album. La fisica non tradisce, sì. E questo è il pezzo. No, il secondo pezzo. Vabbè, un album comunque pieno di featuring. Cioè, abbiamo fatto anche un pezzo Gabriele De Placcaggio. Con Maurizio degli Ultimi, con Coinade, che sono un altro gruppo della zona nostra, e pure altri. Ah sì, con Stato Blend. Beh, poi lo sentiamo, tanto è un pezzo misto hip hop, hardcore. Quarto blocco. E quando è uscito questo lavoro? 2 anni fa. 2 anni fa. Ok. Era un'altra formazione, ovviamente. Era un'altra formazione, abbiamo cambiato 200 formazioni. Ah, ovviamente un collettivo. Così proprio per andare per ordine fa come si dovrebbe fare, insomma, cosa che normalmente non facciamo. Quindi voi nascete più o meno in che periodo? 2008. 2008, quindi insomma 6 anni. Però appunto con, dicevate, con... Sì, la formazione è cambiata totalmente. Questa formazione? Questa formazione è recente, cioè diciamo che il primo, diciamo, di questa formazione oltre a me che è entrato nel gruppo è stato Marco quando è venuto a Viterbo. E quindi diciamo è entrato nel giro, nella scena, nel gruppo. E poi prima c'avevamo 2 ragazzi che erano giù del sud, che poi sono tornati quando hanno finito gli studi. Un altro ragazzo di Soriano, un paese sempre il viterbese. E poi piano piano ci siamo spostati praticamente. Cioè loro, adesso gli altri sono tutti di Roma, perché erano amici, insomma, con Marco più che altro. Vabbè, io mio fratello, tipo. Ah sì, vabbè. Io non lo volevo dire per te, però. Cioè. Come la migliore rappresentazione, perché appunto poi esprime in realtà come è la vita vostra, insomma, tutto sommato, con gente magari che studia e che comunque a un certo punto non ce la fa a seguire, sì, un progetto, certo. Sì, no, sì, sì. È esattamente quello. Però diciamo che adesso dovremmo essere. Ci dovremmo essere stabilizzati, e quindi questa cosa, insomma. Comunque andiamo a bere al pub di Francesco. Esatto. Ormai i problemi legali abbiamo preso solo per quello. Ormai insomma è più una famiglia che altro, no? È diventata una famiglia, sì. Vabbè, una nota autobiografica, insomma, ci siamo conosciuti in quel del Palian Hardcore Fest, un gran festival, un gran realizzato... Sì, perché ci stanno questi ragazzi comunque di Paliano che hanno fatto una, cioè stanno a costruire una scena che è un po' simile a quella nostra della Tuscia, quindi li salutiamo, la 1% Crew. La 1% Crew, certo, so, ormai gemellati col Tuscia Clan, che è sempre la più nostra. Bravissima. E quindi organizziamo spesso serate insieme, ci piace suonare insieme, scambiasse i componenti nei gruppi, quando suoniamo noi per esempio sale qualcuno e loro a suonare, vabbè, questa è un po' una cosa tipica del genere. Quindi una provincia che si è andata naturalmente unendo, magari in un primo periodo venivano loro dal settore sud a suonare nella Tuscia e a collaborare con voi, con questo concerto, con questo festival c'è stato uno scambio, sì, di, sì, energia, sì, insomma, sì. No? Diciamo, praticamente ci siamo un po' rivisti pure, cioè, in quello che fanno loro, più o meno è quello che facciamo noi, che abbiamo iniziato a fare noi anni fa con questo posto che abbiamo a Viterbo, la CDG, cioè la cantina del Goio, dove ci hanno suonato un po' tutti i gruppi punk della scena. E non solo? Sì, sì, sì. Sì, non solo, perché cioè, noi ci piace dare spazio sia ai gruppi emergenti che si avvicinano magari a una scena, comunque scena, termine vasto, perché non si parla solo di hardcore, ma anche di Oi, di ska, eccetera. Che, diciamolo per chi magari non lo conosce, la cantina del Goio non è un locale, è proprio una cantina. No, è proprio del la Goio. Cantina, è la casa di un amico nostro, oppure lui c'ha il gruppo, cioè sarebbero tutti quelli che comunque stanno lì, cioè sono gli altri gruppi che poi stanno nella compilation. Salutiamo anche i No Prove. Che appunto sono quelli dei No Prove, come ci stanno altri ragazzi che hanno sempre chi c'ha il gruppo. Cioè adesso Malore. Per esempio c'è stanno i Malore, ecco, che sono un gruppetto dei Pischelli proprio giovani. Però sono bravissimi, sono fortissimi, e quindi tutte queste persone collaborano appunto alla gestione di queste serate, proprio diciamo auto-organizzata, che è, appunto, come dici tu, è una cantina vera, non è un locale o niente, cioè proprio tufo, cioè è una cantina nel tufo, certo. Ma non è che è stata una cosa voluta perché è figo, cioè sì, fondamentalmente sì, perché a Viterbo non c'era un cazzo, non c'era la possibilità di far suonare gruppi live eccetera, quindi ci siamo inventati, c'erano solo qua cantine di tufo, e quindi con clima infernale fra l'altro e l'acustica perché il tufo non è fresco, no. Non lascia evaporare sudori ed umori. Quindi potrebbe addirittura nascere un altro genere in base alle timbriche, no, che ci stanno, che potrebbe essere tufo core o qualcosa, esatto, del genere. Esatto. Tufo core, bellissimo. Va bene. O noi ricarichiamo un attimo le batterie, ma brevemente, Questo era un pezzo dei Bad Brains che dedichiamo al Banana, che sicuramente è in ascolto e che ascolta lamentandosi 25 o'clock. No, professore, ogni tanto devo portare tributo al Banana, perché sennò si lamenta. C'è grazia, sì, dopo. Vabbè, sui Bad Brains non puoi lamentarti, Banana. Tra una chiacchiera e l'altra andiamo a presentare un altro pezzo degli Assedio. Che ci abbiamo pronto, cari Assedio? Stesse radici dovrebbe essere, che è uno dei nostri primi pezzi, che però ancora facciamo. Ok, Stesse radici. Insomma, stesse radici. Sì, stesse radici. Appunto, come dicevamo prima, è uno dei nostri primi pezzi. Addirittura quando l'avevamo scritto, nella versione che poi è stata riarrangiata da Marco quando è entrato nel gruppo, al basso c'era l'attuale cantante dei Faule, alla batteria c'era l'attuale bassista dei No Prove, cioè quindi appunto sempre gente comunque della scena. Giusto appunto, anche qui stesse radici, anche tra i vari componenti di altri gruppi c'è una sinergia. Sì, questo pezzo in realtà parla di chi comunque condivide con te le stesse storie, poi dopo un po' si stufa o della scena, o si stufa della militanza politica, o si stufa di queste cose e fondamentalmente se ne va. Diciamo, un pezzo che parla più che altro di questo e dice: quello che voglio fare io non mi voglio stufare, cioè voglio stare qua, insomma. E a livello compositivo, come nascono i pezzi degli Esserio? Ma non so, questo forse più lo può dire Marco. Ma non hanno senso. Condivisione di riff. Sì, condivisione di riff e basta. Cioè, nel senso, se ne parla. Diciamo che c'è una forte componente rock di fondo. E poi fondamentalmente è una condivisione, in verità, nel senso, fino a che non siamo d'accordo praticamente tutti, poi non si fa niente. Per questo che alla fine essere collettivisti non paga, perché fa un album ci metti 6 anni. Quindi l'idea è sempre la presentazione in sala tra di noi al pub di qualcosa che ti viene in mente la sera mentre ti svegli alle 2 di notte e buttiamo giù quello che è, come poi con tutti i gruppi, e poi vediamo come va avanti, no? Perché poi alla fine una testa fa il grosso, 5 poi creano i dettagli. Cioè gli Esserio individualmente, cioè ognuno di voi magari ha delle preferenze musicali diverse dagli altri? Beh, sicuramente sì, cioè perché esempio Marco, come diceva, che è il chitarrista, c'è questo influsso più rock, mentre magari, cioè, io mi sono sempre sentito più che altro il punk e l'hardcore. Poi c'è Fabio, per esempio, viene da una scena totalmente diversa, cioè il batterista viene dalla scena metal. Io ci tengo a dire che del punk hardcore non so assolutamente nulla. Sì, infatti lui quando veniva in sala all'inizio veniva in sala e ci vedevano che bevevamo la vodka o la birra e diceva: ma voi potete bere mentre suonate? Cioè, noi ce la fa. E Schino gli diceva: noi dobbiamo bere, perché Schino prima di passare alla batteria e poi alla seconda chitarra, diciamo, era il componente del gruppo che faceva l'ubriaco sotto il palco, quindi comunque, cioè. E quindi poi adesso è passato anche Fabio alla vodka, comunque, quindi l'abbiamo ripreso in tempo. Quindi è possibile, insomma. È possibile. Sì, passare dalla Red Bull pura più alla vodka, o il bicchiere d'acqua pure, capito? Ma in base a queste considerazioni alcoliche, in poi alla fine l'ispirazione appunto viene da qualche sostanza, poi in questo caso è l'alcol. Pure la scorsa settimana, se non sbaglio, parlavamo esattamente della stessa cosa. La scorsa o 2 settimane fa? La scorsa. Forse il motivo per cui noi parlavamo di quelle cose è stato anche il motivo che me l'ha fatto dimenticare. Sì, esatto. Comunque, in base a queste considerazioni e in base a quello che avete detto prima, cioè che a un certo punto uno c'ha il grosso dell'idea, c'ha l'intuizione, buttiamo giù qualcosa, ne parla con gli altri, esce fuori qualcosa, esce fuori la cosa che questo qualcuno aveva pensato o esce fuori una cosa completamente diversa? Vabbè, ovviamente la cosa figa è proprio questa, che comunque uno ha un'idea, solitamente le cose degli altri la migliorano in teoria, cioè perché gli danno quel qualcosa. Noi per esempio, cioè, abbiamo un pezzo che poi magari lo mandiamo, che è, diciamo, un altro nostro pezzo abbastanza vecchio, si chiama Banale Scontato, perché appunto scherzando si diceva: beh, ma voi alla fine parlate sempre delle stesse cose. In effetti è vero, però diciamo anche parliamo delle stesse cose perché poi le cose non cambiano, è giusto che se ne parla. Però poi a dire il vero, cioè, Banale Scontato fino a un certo punto, proprio perché poi ognuno mette il suo e viene fare una cosa abbastanza banale. No, beh, mi era venuto in mente un discorso che, cioè, da una chiacchierata che abbiamo fatto con Massimo, e appunto al Paliana, al Core Fest, ci siamo conosciuti, no? e ci siamo subito riconosciuti anziché conosciuti, perché insomma è emersa subito la radice metal. Esatto, un'attitudine. Pensavo per taglio dei capelli. Sì, no, quello diciamo che io uso delle lacche particolari che mi, vabbè, insomma, che mi distinguono. Massimo insomma li tiene un po' più lisci, io ce l'ho un po' più voluminosi, quasi eterei, insomma. Comunque sì, è vero, ci siamo riconosciuti a distanza, in mezzo a parecchia gente. E insomma, vabbè, era partito il discorso insomma un po' dal metal. E perché tu vieni insomma da un trascorso. Io vengo da un trascorso di gruppi metal e che poi alla fine, vuoi o non vuoi, non sono mai andati in porto come progetti o quant'altro. Difatti ho fatto proprio più proprio perché c'ero io. di fatto ho fatto più concerti con i ragazzi in 2 mesi piuttosto, però, che in una vita di però insomma mi parlavi che eri votato al tecnicismo, alla perizia. Sì, l'idea poi del metal si basa tutto su questo qui, un virtuosismo che poi magari sotto al palco nemmeno riesci a intuire, cioè proprio non riesci ad apprezzare. E invece in questa scena è pazzesco, perché sbagli, non ti rendi conto, vai avanti e la gente che ti ascolta non si rende conto e continua è contenta uguale, continua a cantare. Piacevolissima, una sensazione piacevolissima. Insomma, c'è più libertà sul palco. Sì, passa, esatto, un po' in secondo piano, appunto. E poi, sinceramente, io a memoria, insomma, qualche concerto metal l'ho visto negli anni. Io di orche volanti non ne ho mai viste. E soprattutto con gente che le cavalca. Sì, sì, no. Vogliamo ringraziare Tomei per non essere diventato invalido a Paliano. No, devo dire che sono stato colpito da un'orca volante in piena fronte. Perché diciamo che io non lo so se è voluta questa cosa, però diciamo sì, è proprio un'orca volante. Perché gli assedio si portano. Sembra strano. Sembra strano. Sì, non stiamo vaneggiando in questo momento. Gli assedio si portano queste orche gonfiabili che non so dove le trovano, sinceramente. Però dall'allevamento proprio. E che i cani puntualmente ci mangiano e le fanno esplodere, quindi. No, vabbè, insomma, quindi l'orca si scusa perché voleva venire, però ci ha avuto degli impegni superiori, quindi. Infatti mi aspettavo insomma che portavate anche l'orca, però stava giù di pressione, esatto. No, diciamo che ho provato sulla mia pelle una particolarità dell'orca, perché immaginate insomma la forma di un'orca: se viene lanciata a circa 20 metri dal suolo in verticale, diciamo ha una sua forma aerodinamica che le permette di ridirezionarsi a terra con velocità assurde. No, ma questa gag è nata fondamentalmente perché ci avevano invitato a fare una serata che era anche quella molto made in Tuscia, perché eravamo tutti i gruppi diciamo del Viterbese, insieme noi, i No Prove, i Maleducazione Alcolica e l'altro gruppo, non mi ricordo chi erano, vabbè, insomma, una serata al Faro. Ah no, vabbè, l'altro gruppo, giustamente, scusate, erano i Claxon, cioè, vabbè, mi perdoneranno. E quindi praticamente è nata sta gag, visto che era per la palestra popolare Lidense, dice portiamo la spiaggia qua, capito? Perché visto comunque stavamo in fissa col surf, eccetera, però abbiamo in posti in cui c'è solo il cemento, quindi non è che potevamo fare più tanto. Dice vabbè, portiamo l'orca. Quindi gli assedio quando fanno un concerto portano il loro lato tropicale. Esatto, sì. Però basta orche, perché sono finite. No, veramente sono finite. Sì. Abbiamo speso un fracco di soldi a comprare queste orche. Adesso. Vabbè, lanciamo un appello, insomma. No, se no, il suggerimento mio, fatene una in ghisa, così dura, esatto, per parecchio tempo. E anche pure il lancio, più funzionale, diciamo, cioè, esatto, quando arriva in faccia di Vaddario. Cioè. Vabbè, insomma, ci abbiamo sto pezzo dedicato all'orca. Vai. Ah no, giustamente, no. Questo qui dici la voce del clan, è un pezzo nuovo, appunto, magari dopo ne parliamo più attentamente. Che... Station. E insomma. come? Partiva il coretto. Poi partiva il coretto. Vabbè, su questo pezzo, sì, oltre alle, come diceva Max, oltre alle orche volanti si parla di un sacco di cose. Perché appunto è un pezzo che abbiamo praticamente dedicato alla crew nostra, da cui vengono tutti questi altri gruppi. Perché fondamentalmente Viterbo, per chi comunque si segue un po' la scena punk, ci ha avuto una bella storia musicale, cioè c'erano i Tear Me Down, i Flop Down, e di tutta questa scena che finiscono in down, esatto. E di questa scena fondamentalmente anni fa, quando noi abbiamo cominciato a suonare, erano rimasti solo i Razza a Parte, che ancora ci stanno e salutiamo, stanno anche sulla compilation bella, Stefanino, un grande gruppo. E fondamentalmente quindi appunto ci siamo trovati un po' il deserto intorno, perché non c'era più un concerto, non c'era più una scena, c'erano pochi gruppi. Abbiamo iniziato noi, i Foul, che è un gruppo OI, e poi dopo poco questa scena si è moltiplicata grazie alle serate, adesso appunto ha culminato con questa compilation in cui ci stanno pure tutti questi altri gruppi di cui abbiamo già parlato, Maleducazione Alcolica, Inaid, in cui c'è Capo comunque della vecchia scena, ha scritto pure recentemente un libro appunto sulla vecchia scena. E quindi è una cosa carina, perché dal nulla abbiamo creato una vera e propria scena che comunque è condivisa, quindi quando va a suonare un gruppo ci andiamo tutti insieme, diventa una trasferta, diventa una cosa simpatica. No, è solo così per interloquire un po' rispetto alle cose che hai detto. Che poi è pure una cosa che mi veniva in mente prima, cioè questa scena non c'era, Viterbo si era un po' spenta più che altro da quello che racconto che fai te, era un po' in stand by, chiusa. Invece il fatto appunto di venire dopo invece Tear Me Down o tantissimi altri gruppi hardcore, ma anche non hardcore, insomma, della scena viterbese, che comunque è stata sempre stata abbastanza florida, è stato appunto in questo momento un attimo di disorientamento che c'è stato, e quindi dover ripartire, ricreare un po' appunto la crew, il gruppo, l'amici, la cricca, chiamiamola come ci pare, è stato di ostacolo, perché appunto c'è questo riferimento, così magari riusciremo mai a fare quello che hanno fatto loro, oppure è stato d'aiuto, che invece... Ma non lo so, sinceramente forse nessuno dei due, perché comunque sono due cose collegate fino a un certo punto, cioè nel senso, penso che proprio la storia della vecchia Viterbo hardcore, per quanto ci ha ispirato inizialmente, perché è ovvio, cioè noi cresciamo comunque con i pezzi quelli, no? Appunto come diceva, gli Allergia, Tear Me Down, Razza a Parte, però poi abbiamo creato una cosa un po' diversa, no? Un po' pure nostra, perché ovviamente sono cambiati i tempi, la gente è differente, poi c'è chi comunque, come dicevamo, c'è stava prima e c'è sta adesso. Però cioè, la cosa bella che vedo nei concerti, ci stanno un sacco dei pischelli, ma pischelletti. Sì, infatti, cioè, io diciamo sono contentissimo quando vedo questi ragazzi che dicono: ah, se volevamo fare il gruppo, capito? Anzi, preferisco magari far suonare loro che far suonare il gruppone. E così la pensiamo un po' in tutto il Tuscia Clan. E quindi questo è un punto di forza, perché poi chi sta lì c'ha la possibilità, cioè non si stufa dopo due giorni di suonare, e tu quindi garantisci che dopo un po' di anni, invece di essere in due gruppi, in tre gruppi, c'è una compilation con 9 gruppi e 16 pezzi, che appunto si è costruito nella Tuscia. E la copertina ce l'ha fatta sempre un amico nostro, perché fra l'altro quando abbiamo iniziato a fare le serate le facciamo insieme alla provincia, che so appunto la crew di Bracciano Anguillara, Bracciano, che poi da cui vengono gli ultimi, eccetera. C'erano i Charlie prima, Automatica Aggregazione, Barbera Champagne adesso. E quindi, e infatti la copertina ce l'ha fatta Palmiro, che appunto sta amico nostro, ci ha avuto quest'idea di fare questa copertina che sembra un po' un vaso etrusco, però con questi che suonano, fanno il pit, fanno il casino. E no, proprio a caso, guarda, hai accennato di questa compilation, niente, ce l'abbiamo pronta, perché è stata presa in quel del Paliano Hardcore Fest. E vabbè, guarda, no, veramente, io sono stato colpito veramente del lavoro che è stato fatto, sia il lavoro grafico che penso raramente si è visto su un vinile una grafica di questo genere. Non glielo dì che già è montato, sì, Palmiro, lascialo perdere. Vabbè. Insomma, vabbè, qui leggiamo dalla copertina: assedio, Razza a Parte, Foul, maleducazione alcolica, No prove, malore, ostiliter, ops, arbarning e Neid. E quindi la cosa, cioè, ascoltando il disco, la cosa che mi ha fatto piacere ascoltare è la composizione, insomma, molto eterogenea per generi, insomma, non è una compilation prettamente hardcore o prettamente crust, c'è un po' di tutto, insomma. Sì, perché poi quello che ci unisce è questo vincolo d'amicizia, questo che cerchiamo di costruire appunto tutti i giorni, però nel complesso è venuto proprio un inno, fra virgolette, alla Tuscia. Infatti c'è pure una cover di Razza a Parte, che è Chaos, rifatta in versione con tutto il dialetto viterbese. C'è una rivisitazione di un pezzo che stava su Gente Senza Poesia, sempre di Razza a Parte, quindi insomma collegamento al passato in Aid, appunto, con tutte... Insomma, tra l'altro Neid che ritornano su questa compilation, noi abbiamo avuto già un contatto con i Neid, collaborando con la compilation Non un sasso indietro, e ricordiamo, insomma, di aver organizzato il concerto al Forte, tappa romana del tour Benefit Notav, niente, bella Neid. E a proposito di Razza a Parte, io volevo proprio passare Chaos, il pezzo in dialetto viterbese, se trovo la traccia. Insomma, loro sono i Razza a Parte, della compilation Costruito nella Tuscia, poi continuiamo a chiacchierarci sopra. Alessandro, pronto? Ci sei? Sì. Insomma, buonasera a tutti. Buonasera Alessandro. Insomma, ritorni negli studi di Radio Onda Rossa. Sì. Un saluto agli assedi, un saluto a Fevo, al fantasma. Eccolo. Ciao. Che dire? Che dire, insomma. Mi sento un po' male. Cioè, vabbè, perché sto male, cioè forse traspare il malessere. Senti, niente, stavamo appunto presentando la compilation Costruito nella Tuscia, e vabbè, qui ci consigliavano di non porre troppo l'accento elogiando la veste grafica. No, perché poi Leonardo sta sempre, dice che c'ho l'ego troppo sviluppato, fondamentalmente. Vabbè, però insomma, a te il compito di descrivere a parole quello che non è possibile fare per radio, quindi presentare graficamente il lavoro. No, vabbè, innanzitutto ci tenevo a fare una predicazione, che è stato molto, cioè, un onore per me comunque lavorare alla compilation, a questa compilation, perché fondamentalmente quella viterbese della provincia di Viterbo è una scena che è, diciamo, cresciuta insieme a quella poi della nostra provincia. Siamo, tra virgolette, cresciuti insieme a livello musicale, personale, quindi insomma per me è stato un onore, insomma, un piacere. E poi, che dire, la grafica in verità poi nasce da un'idea di Leonardo, insomma, che ha detto fondamentalmente, mi ha proposto, quando mi ha chiesto di fare la grafica, di fare un pit in stile etrusco, un'idea che mi è piaciuta subito e quindi, da lì è nata, diciamo, l'idea della grafica. Quindi ci sono questi etruschi con tatuaggi hardcore che sì, fondamentalmente prima di fare tutta questa grafica ho dovuto fare uno studio di tutti i vasi etruschi, greci e via di sotto, tutta l'iconografia, diciamo, di quell'età poi abbiamo fatto fondamentalmente quello che una grafica si dice un 1+1, parlavamo di punk hardcore e punk hardcore in Etruria, e quindi abbiamo disegnato fondamentalmente un concerto in stile, cioè un concerto moderno in stile, diciamo, etrusco. Non so se mi sono spiegato molto bene. Sì, no, c'avevo una curiosità, se questa voglia, insomma, di voler rimarcare le proprie radici anche territoriali, no? Costruito nella Tuscia, quindi la voglia pure di unire, di unire i gruppi, insomma, della Tuscia, appunto. Se comunque i gruppi di Viterbo e dintorni c'hanno un po', la mia domanda è se c'hanno un po' una caratteristica diversa rispetto a magari i gruppi della capitale, cioè, guarda, sicuramente innanzitutto a livello di scena comunque c'è una diversità proprio d'attitudine, nel senso che, senza nulla togliere ai gruppi e alla scena della capitale, quello che si respira poi fuori in provincia o a Viterbo stesso è comunque una genuinità, una condivisione che è diversa da quella di una grande città, dove magari c'è pure un po' di snobismo, protagonismo o anche solo dispersione. Come? O anche solo dispersione. Molta dispersione, ma guarda, soprattutto io penso che in una realtà più piccola, fondamentalmente numericamente, poi sei in pochi e cerchi di compattarti invece che disperderti, no? È quasi un, cioè, diciamo che, un che qualcosa di sopravvivenza. Ecco, diventa necessario, insomma, cioè magari immagino. Come ne parlavamo ai microfoni spenti con gli assedio, insomma, ci si deve incontrare per forza e ognuno deve avere il proprio ruolo, altrimenti le cose non si fanno, cioè, sì, esattamente, non c'è nessuno che le fa per te, fondamentalmente, ecco, mettiamola così. Quindi è una scena dove magari numericamente è anche inferiore a quella di una città più grande, però c'è molta più gente che poi nella pratica si dà da fare, e questo alla cantina l'hanno dimostrato alla grande, nel senso che erano partiti, vabbè, siamo partiti perché poi all'inizio c'eravamo anche noi nell'organizzazione, e che eravamo in pochi, e adesso a dare una mano sono tantissime persone, soprattutto, come dicevate voi prima, tantissimi ragazzetti, cioè veramente piccoli, e quella è una cosa che ti riempie il cuore, insomma. No, ma poi questa cosa magari è un fatto che va anche oltre la musica, cioè Poi non siamo, cioè non siamo, non, nel senso, non siamo solamente fruitori di musica o avventori dei concerti, cioè andiamo sì per la musica, però viviamo pure di emozioni, di energie che assorbiamo. La cosa che io ho avvertito, insomma, e che mi fa piacere è appunto respirare questa energia genuina, cioè senza assolutamente sì, cioè nel senso fondamentalmente quello che è stato fatto a Viterbo con la cantina del Goglio è stato dare un'alternativa a chi prima non ce l'aveva, nel senso che crescere in un determinato posto, come dicono i Rastafari, le alternative ce ne stanno poche, o stai con tra virgolette discotecari o coi fascisti e loro hanno creato un'alternativa dove prima non c'era più nulla. Dopo, diciamo, la gloriosa scena viterbese degli anni 90, che anche musicalmente, diciamo, ha fatto scuola, si era creato un po' un vuoto generazionale e loro l'hanno colmato, insomma, non solo dal punto di vista musicalmente, ma a livello, diciamo, controculturale e sociale, insomma. No, che poi negli ultimi tempi questa energia che viene dalla provincia cioè è quasi dato per scontato, diciamo, anche a Roma se ne parla di questa energia positiva che viene dalla provincia, cioè parlare di provincia nell'ambiente hardcore significa cioè parlare appunto di questa genuinità che magari a Roma manca e che comunque viene apprezzata. Sì, sì, ma poi devo dire che comunque Roma, ecco, voi ne avete la riprova, anche ci ha sempre accolto molto bene, nel senso si organizzano tante cose insieme, con sia concerti che altre iniziative, cioè nel senso poi alla fine, diciamo, la parte più attiva e genuina a sua volta della scena romana, insomma, ci ha sempre accolti bene e viceversa, insomma. Chi se ne accorge, insomma, tende poi ad unire tutte queste energie che vengono dalla provincia o che vengono da Roma. Poi questa era una pulce che verrà svelata nei prossimi mesi, quel fatto di rimanere uniti, insomma. Sì, sì, sempre la stessa storia, ma sempre valida, diciamo. Bene, bene. Senti, noi niente, se il professore... No, Ale, noi eravamo andati a prendere la birra, vuoi una birra? Volentieri, okay. Io sto a casetta, ormai mi sono invecchiato. Ok, no, vabbè, no, un saluto a te e niente, dai, ci rivediamo presto, il prima possibile, anche qui negli studi, a tutta la radio provincia, aspettiamo pure i vostri progetti, vostre nuove, che appunto da qui con grande, come si dice, grande piacere avremo modo di diffondere, di mandare. Magari, guarda, tanto con gli ultimi stiamo a registrare, magari le vengo a bussare. Grande, è quello che volevo sentirti dire. Ma va benissimo, allora dai, ci risentiamo per questo. Senti, ma io adesso non ricordo, mi pare di averlo letto in giro, ci sarà una serata di presentazione della compilation? Sì, mi senti? Sì, eccolo. No, dicevo, mi pare di aver letto in giro che ci sarà una serata di presentazione della compilation. Sì, adesso non so precisamente la data, ma questo forse mi può aiutare Leonardo, insomma, sì, che è sicuramente una cena breve. Se non ricordo male. Il 19, se non ricordo male. Sì, il 19, appunto. Va bene, poi insomma avremo tempo per ricordarla. E dai Alessandro, grazie mille, a prestissimo. Grazie pure delle parole. Saluto agli Assedio e all'Orca. Un abbraccio. Ciao. Bella raga. Ciao. Ciao Vale. Bella. Oh no, no, no, no, no, no. It feels like vabbè, Bad Brains, Rotella, sempre come dovuto tributo per il Banana, il censore di Radio Onda Rossa. Minuti primi. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e questa è 25 o'clock. Oh, il numero è sempre lo stesso, è 0649 1750. Qui ci stiamo facendo una chiacchierata con gli Assedio. E ricordiamo che è costruito nella costruito nella tuscia. Una coproduzione di Tuscia Clan, Rebound e Hell Nation. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia di apertura della compilation, che è giusto appunto degli Assedio, e questo è Aperitivo al Cianuro. Sta giocando, sta un po' con la vita. Insomma, abbiamo bissato con la voce del clan. Solo per il coro, Eh sì, perché i concerti vanno a finire sempre così. Tanto per ribadire un po', costruito nella tuscia, orche volanti e quant'altro. E coretti. E coretti. No, scusate, non avevamo detto come si chiamava l'orca. Ah, l'orca Madonna. Orca Madonna. Che ha più fan di noi. Ha più fan di noi. di molti gruppi. Vabbè, è il sesto componente degli Assedio. Sì, sì, l'orca. Il primo direi ormai. Il primo. E quando vi possiamo vedere dal vivo? Adesso suoniamo a Guidonia il 10. Il 10 suoniamo a Guidonia. Poi ristrutturatamente. Chi suonerà con voi quella sera? Set Opposition e No Confidence. Poi siamo al Go Fest, al Ben Ci Venga il 25. Insomma, vi piace proprio la compagnia di Pompeo, eh? Sì. Vabbè, insomma. Ti vogliamo bene, Pompeo? Noi no, però. No, ma lui ci crede. Insomma, Guidonia, poi il Go Fest al Ben Ci Venga. Poi questo è Roma a gennaio. In teoria, forse è meglio non lo diciamo, perché tutte le volte dobbiamo andare giù a Napoli a suonare, alla fine succede qualcosa, o a noi o a Cranio che ci organizza le serate giù. E quindi, però. E quindi, in teoria, sì. E in inverno anche giù. Vabbè, poi noi uniremo le preghiere all'orca Madonna che vi protegga. Che interceda. Come ci hai chiamati? Mi hai sentito? Panca bestia! Panca bestia, davvero? Ci riduci a una sottocultura e poi non sei in grado neanche di darle un nome! Bravo! Ed abbiamo pronta un'altra traccia degli Assedio, che è Terza Legge. Sì, la Terza Legge. Praticamente, diciamo, è un gioco di parole, non so come definirlo. Praticamente la terza legge è quella della termodinamica, per cui ad ogni azione una reazione, e così della dinamica. Vabbè, sono ignorante. Vabbè, sì, più o meno. E infatti il disco, appunto, questo qui prendeva spunto il nome da un pezzo di questa canzone, appunto, dice: la fisica non tradisce, perché appunto è una cosa che non puoi cambiare, cioè tu mi fai una cosa e ti devi aspettare le conseguenze. Questo è il succo. Ad ogni azione una reazione. Una reazione. E un caciotta pure. Ah, giusto, qui c'è il featuring del caciotta. Grande. Dei Termidown, appunto, Os, eccetera. E mille gruppi che c'ha. Mille gruppi. Godzilla, eccetera, eccetera. E quindi Terza Legge, loro sono sempre gli Assedio. Porta la trappola per i biglietti. Lasciano campo per farci avanzare. Voglio reprimere il nostro dissenso. Ho già troppo tempo, carichi all'odio. Ma questa volta non siamo da soli. Ad ogni azione una reazione. La fisica non tradisce. I ruoli si prendono prima o poi. E insomma, questo pezzo stava su quale disco? Su questo che abbiamo sentito, su La fisica non tradisce. Il secondo disco. Che è uscito quando? Sempre 2 anni fa. Ma state registrando qualcosa? Praticamente abbiamo la prima demo. C'erano 3-4 pezzi fra cui Stesse Radici, quelli che abbiamo sentito all'inizio. Poi uno split con un gruppo di Viterbo che appunto era Cruel Revenge. Esatto, contemporaneamente a noi. Poi hanno registrato, non erano mai riusciti a far uscire questi pezzi perché si erano sciolti, erano da paura, quindi abbiamo lì, insomma, riesumà. E poi abbiamo La fisica non tradisce, che è il disco che ci abbiamo, tra virgolette, perché nessuno di noi ce l'ha, nel senso è introvabile. Anzi, lo stiamo cercando, se c'è qualcuno se ce che ce lo rivende, insomma, ce lo riprendiamo, perché io non ce l'ho. Ce lo ristampo, ce lo rimasterizza. E poi adesso, questa compilation, e poi stiamo lavorando da un po' di pezzi nuovi, vediamo che esce fuori. Siamo un po' lenti, però piano piano cacciamo fuori. Disney. Bene, bene, no, ci piacciono chi prende la vita con lentezza. E, magari. Sì. Un saluto a Mariani a proposito. Esatto, bassista e chitarrista storico che ci ha lasciato da poco, insomma, ci ha lasciato non fisicamente, ovviamente. Grattate Maria. I vostri contatti, se qualcuno, insomma, all'ascolto vi vorrebbe rintracciare. 113. Fondamentalmente sì, 113. No, Casa Teschino, ricordaci l'indirizzo. Serpentara, Colli della Serpentara. Zona Serpentara. 144. Non solo la provincia, ma anche la periferia, perché poi alla fine noi siamo là. Abbiamo una pagina Facebook, Assedio, ovviamente. Fondamentalmente solo questo. I numeri di telefono non ve li diamo. Però su YouTube per trovarvi, perché questo qui poi delle finezze, perché chi ascolta dice: vabbè, fammi sentire sta assedio, dove va? Su YouTube, ovviamente. Su YouTube è più semplice trovarci assedio come HC. Assedio HC. Okay. Sì, viene più semplice. Se no scappa fuori cose medievali, immagino, con l'assedio. Esatto. Però la modalità preferita, penso andarli a cercare direttamente al banchetto, dopo il concerto, prima del concerto, o al bancone del bar. Esatto. Però insomma, al bancone del bar vi aspettano a mani vuote e... No, insomma, noi li aspettiamo. Certo. Bussate coi piedi a casa degli Assedio. Va bene. Allora, il volgere della mezzanotte, e quindi è il principio della 25esima ora. Andiamo a chiudere questa chiacchierata con gli Assedio. Quindi sì, andiamo a chiudere questa chiacchierata con gli Assedio con un altro pezzo che è abbastanza rappresentativo. Sì, Guasta Festa è il pezzo che abbiamo fatto insieme al nostro amico Sedato, Blend del Quarto Blocco, con cui contaminiamo un po' con l'hip hop, che fondamentalmente a noi piace, perché diciamo magari a volte cose simili in maniera diversa, cioè c'è un'attitudine che ci unisce. Infatti abbiamo fatto serata insieme, cioè è sempre stata la paura, quindi li salutiamo anche. E se è l'ultimo pezzo, quindi ringraziamo voi, perché è importante, ci stanno queste trasmissioni, appunto, e poi è divertente soprattutto. E ci offrono la birra per quello, infatti. Vabbè, venite a 25 o'clock. Poi salutiamo, sì, insomma, tutti gli amici nostri della Tuscia, di cui abbiamo parlato, eccetera. E alla prossima, insomma, ci vediamo tanto nel pit. Bene, bene. Grazie a tutti. Io devo fare questo saluto per forza all'SBP Crew. Per forza. Grazie ragazzi. Ve voglio bene. Ok, criptico. E niente, con quest'ultimo pezzo degli Assedio vi salutiamo e ci vediamo nella 25esima ora tra poco. Non mi so comportare, dice la gente. Presuntuoso, superbo, arrogante, maleducato, irrete! Tutta la cena è cibo, sarà cattivo. E quello che dirò, mi ricorda la mente. Non sarò di compagnia. E per niente, divertente. Io so usarmi di tutto qua. Come fingere ma non mi va. La vita è breve per vivere qua. Come volete voi. Basta flette, basta vite. Sì, i loro amici, basta. noi nel pieno della 25esima ora andiamo a cambiare registro con i Gonga, da un lavoro del 2013 che è Concrescence, e questa era la traccia di apertura, Miasma. E noi qui a 25 o'clock abbiamo iniziato la nuova stagione sentendoci soli soli. Eh sì, abbiamo bisogno di compagnia. Dopo gli Assedio, che ancora infestano gli studi di Radio Onda Rossa, magari ci aiuteranno nella scaletta di questa trasmissione. Noi sempre a disposizione. Sempre a disposizione. Siamo sempre a disposizione. Quindi cominciate a pensare a qualche pezzo da aggiungere alla scaletta di questa sera. Noi nel frattempo vi proponiamo gli ospiti della prossima puntata. Loro vengono da Roma. Da un lavoro di prossima uscita. Che uscirà su Blood Rock. Divisione della Black Widow di Genova. Loro sono i Tiresia Raptus e questa è Scheletro. Noi rimaniamo nella zona di Roma e dintorni. Loro vengono dai Castelli, eh? Sono gli Ira del Baccano. Dal loro ultimo lavoro di uscita imminente, che è Terra 42. Questa è Vulcano. sbagliato, mi ami lo stesso, come la vita di adesso, maleducato. Guardo un culo bagnato, schiacciato da un vetro. A cosa credo, mi chiedi? A cosa vedo, mi ledi? Nessuna di queste vale il prezzo speso, brave. E non sono soldi, sono solo carta. Sono a 100 miglia come su una barca. Sono i soldi che mi hanno speso. Io che li ho spesi, io che li ho presi. Io che facevo quello che volevo e non ero più come volevi. Mentre la scopavo pensavo a me, dopo pensavo a te, dopo pensi che dormo con le pillole e whisky di 10 anni. Dischi di 10 anni, rischi sti 10 anni. Ai miei amici da 10 anni gli regalo sti 10 grammi. Torno da giri, giri, giri, faccia Bogotà. Sopra al mare pagoda, fuori al bar bancomat. Fai la gatta che graffia griffata. Collane, collane, prima mi piace un po' parlare, parlare, parlare. Soli, siamo soli, vuoi un po' d'amore. Riempio vuoti, atmosfera, luce blu. Sole fuori, io, tu, dentro vuoti, raggi X. Dentro fuori, girati, pensa domani che hai fatto. Penso domani che ho fatto. Rischi di 10 anni, rischi sti 10 anni. Ai miei amici da 10 anni, vi regalo sti 10 grammi. Rischi di 10 anni, rischi sti 10 anni. Ai miei amici da 10 anni, vi regalo sti 10 grammi. Vado? Sicuro? E questa era l'ascoltatore Bimbo Banana, vero? Sì, una che ci ha fatto una richiesta proprio. Sì, il piccolo Banana, che ringraziamo di essere intervenuto, di ascoltarci fino a quest'ora, malgrado l'ora tarda. Lui è piccolino. Gli piace la musica di questo. Il testo non l'ha capito. Il testo non l'ha capito, però insomma gli piace il beat. Gli piaceva come fa la musichetta, insomma. Più di qualche volta abbiamo avuto problemi con i genitori del Banana, che ci chiamano incolpandoci, insomma, di tenerlo sveglio fino a quest'ora. Di fargli sentire la musicaccia. La musicaccia con questi testacci, insomma, va bene, però insomma, gli vogliamo bene. Guarda, 0040, di. 00:40 i minuti. Vedi. No, vabbè. 25esima ora. Ricordiamo che oltre la 25esima ora, il venerdì c'è una trasmissione veramente veramente degna di nota. Che noi ascoltiamo tutti ferventemente, mettiamo proprio l'allarme sui cellulari, sulle sveglie, perché non ne manchiamo una di trasmissione. E come si chiama questa trasmissione? Si chiama Niente da Venne. E sarebbe la doppia H di Radio Doppia Andalusia. H. Sì, ok. Sì. Vabbè, condotta da un bambino. Va bene. E quando c'è questa trasmissione? Venerdì dopo il GR, dopo inizia il GR. Lui prima traccheggia un po', gioca con i lettori di CD con YouTube. Ci sarà anche una pre-trasmissione. Sì, la pre-trasmissione. Lui gioca con queste musiche, queste musichette che gli piacciono, e poi alle 14 invece c'ha, diciamo, la sua scaletta vera e propria preparata con la doppia H. Bene. Niente da Venne. Dicevamo 0041, 17 minuti alla fine di questa traccia. Loro si chiamano Godspeed You Black Emperor. Disco uscito nel 2012 per l'etichetta canadese, come in ogni altra, per ogni altra loro pubblicazione. Etichetta canadese Constellation. Pezzo di anima, de core, che ci abbiamo lasciato insieme a loro e a tutte le band che girano intorno a quella scena, che poi non è così distante dalle nostre scene, almeno per quanto riguarda i rapporti umani che si costruiscono intorno alla musica. Dai, 20 minuti ve li lascio perché bisogna ascoltarli tutti e poi andiamo verso i saluti finali. sono sempre cavalcate e fatte di suoni e ghiaccio, di fuoco e ghiaccio. Godspeed you, Black Emperor. A Radio Onda Rossa 25 o'clock, quando appunto siamo in 25esima ora, l'ora rubata ai tempi, al ritmo della produzione, ai tempi e agli spazi del consumo. Lunga puntata ancora di 25 o'clock è iniziata questa sera con ospiti gli Assedio da Viterbo. Lasciateci ancora qualche minuto perché vi dobbiamo proporre questa artista romana. Si chiama Lily Refrain. Suona la chitarra e tutto il resto, fa un po' tutto da sola. Anche lei sperimentando e producendo dei suoni assolutamente singolari. Mille influenze, mille fattori diversi vanno a costruire appunto questo suono. Six, six, six, Barnes. Lily Refrain dal suo ultimo lavoro Kawax. Thank you. Lei viene da Roma, Lily Refrain, e fa tutto da sola, eh. Ci arrivano voci che i suoi spettacoli siano particolarmente coinvolgenti. Beh, l'1.04, diamoci un taglio. Anche quando si chiude, arrivano i saluti da parte di una presenza che di tanto in tanto aleggiava qua negli studi, una presenza di peso, eh sì sì, un bel demonietto, bella Gigio. Anche il modo di salutare non è male, bella compagno, perché ne abbiamo bisogno. Ricordare che siamo compagni e compagne, e sta parola così che veniva usata tanti anni fa, che oggi viene usata con più difficoltà, attivista, militante, carica però di un'affettività, di un'umanità che chi nell'ambiente dei compagni, compagne, non c'è stato. Non riesce a cogliere in pieno. Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 0649 1750, 6180 4001 per sottoscrivere alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. La programmazione di Radio Onda Rossa riprenderà domani mattina con la rassegna stampa, la lettura delle notizie dalla città, poi gli aggiornamenti in diretta per quel che succede da Roma e nel mondo durante la mattinata di Radio Onda Rossa alle 13, il GR, e poi via via. Tutto il palinsesto della radio. Un saluto a tutti i compagni e le compagne che si trovano nelle carceri, che ci ascoltano anche a quest'ora. Un saluto a chi è a casa, agli arresti domiciliari, e pensiamo a Paolo e Luca. Fra poco il Tribunale del Riesame andrà a valutare la loro condizione di reclusi nel proprio appartamento. Anzi, magari fosse, perché nel loro caso nemmeno è possibile questo. Reclusi altrove, fuori dalla loro casa. Un saluto pure a Marco di Spartaco, anch'egli agli arresti domiciliari. E un saluto a Nunzio, invece, recluso in quel di Regina Coeli. Ancora un saluto a Chiara e Fagiolino, che invece sono reclusi a Re Bibbia. E solo questo lungo elenco, non lunghissimo, insomma, abbiamo ricordato solo chi è più conosciuto qui a Roma. Red wall, two almeno da queste parti. Ma tanti e tante sono appunto i compagni e le compagne costretti dalla repressione al carcere per via del loro, status di fare, cioè di essere persone che fanno le lotte, le animano, le promuovono. E anche la parola lotta è una parola antica che andrebbe così reinquadrata. In quanto sembrerebbe che si lotta, così almeno per come ci descrivono i mainstream, i media ufficiali, così per una convinzione ideologica, per un fatto di essere professionisti delle lotte. Si lotta per starci in questa società, per pretendere quello che ci è dovuto quanto produttori e produttrici di merci. Che poi della società, appunto, sono le fondamenta di questo merdoso modo di esistere che assolutamente vogliamo cambiare. Bella così, allora. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Non so se mercoledì abbiamo provvisto delle sorprese, non mi pare, forse. E mercoledì prossimo con il Tirese Raptus. Ah, vedi che c'è, infatti, mi ero dimenticato. Quindi si parte a cannone, anche la prossima settimana avremo ospiti. Noi comunque vi terremo sempre compagnia fino a luna di notte, più o meno. Vabbè, dai, ce ne andiamo. Saluto a tutte le compagne e i compagni all'ascolto e ci salutiamo sotto sempre la luna comunista. our dreams. I'll share our dreams under a communist moon.